Effetto Mondo. Eccoci qua, ciao Giulia Crivelli. Buongiorno. Buongiorno. Carissima Giulia, oggi come stai intanto? Ma io bene abbastanza, un po' di raffreddore, ma io ce l'ho sempre in questo periodo, quindi perciò insomma resistiamo, facciamo quello che possiamo da qui o da casa. Certo, manteniamo anche noi le precauzioni, lo diciamo anche perché così, questo è un aspetto che magari l'ascoltatore interessa, anche noi abbiamo dovuto cambiare il nostro modo di lavorare, molti lavorano da casa, lo sapete, alcuni vanno in onda da casa, altri fanno cose simili, insomma, quindi diciamo la vita cambia per tutti. Sì, io sono due piani sopra di te, però appunto manteniamo molto più di un metro di distanza. Da cosa partiamo? Ma direi dagli Stati Uniti, perché ieri Donald Trump ha fatto questo messaggio e naturalmente i numeri li vedremo di giorno in giorno crescere, c'è il risvolto sulle borse naturalmente, tutti il Wall Street Journal apre su questo fine del mercato del toro dopo 11 anni, ci sono anche le notizie di Sanders che anche lui resiste, non si ritira per ora, anche se sappiamo che è indietro sul rivale Joe Biden, e se vuoi sentiamo 10 secondi di Trump perché aveva un tono molto calmo, ha detto delle cose molto semplici senza usare espressioni a volte fin troppo infantili se vogliamo, è sembrato molto convinto di quello che diceva, cioè che la chiusura dei voli è già una misura che proteggerà molto gli americani, la chiusura dei voli dall'Europa. To keep new cases from entering our shores, we will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days. The new rules will go into effect Friday at midnight. Ecco, Friday at midnight, non osare prendere un aereo per gli Stati Uniti dopo quell'ora. No, non ci penso neanche. I problemi all'orizzonte, secondo USA Today, per USA Today è uno sostanzialmente, che ci sono almeno 30 navi da crociera che stanno dirigendosi verso gli Stati Uniti, vale a dire 100.000 passeggeri per i quali bisognerà trovare una soluzione. Io cosa non la capisco, questa cosa delle navi da crociera, com'è possibile che si siano messi in viaggio in tanti, sono tantissime in questi settimane. Sì, e tra l'altro il settore delle crociere è uno dei settori che Trump ha già promesso di aiutare, li ha anche tutti già incontrati. Questo è un altro discorso, certo. E perché naturalmente da qui in poi il problema delle crociere, lo sentivo proprio anche stamattina in una trasmissione, è che vengono prenotate con larghissimo anticipo anche per avere dei prezzi di favore, e non è detto, perché poi come tutti quando firmiamo un contratto di viaggio firmiamo delle carte dove sicuramente non leggiamo tutte le clausole, non è detto che questo coronavirus rientri in una causa di forza maggiore, e quindi se la crociera viene annullata all'ultimo momento non è detto che chi aveva prenotato questa vacanza avrà diritto a un rimborso. L'altro tema molto interessante, sempre legato agli Stati Uniti, lo solleva il New York Times, ed è la questione degli homeless. Negli Stati Uniti ci sono milioni di persone, noi li traduciamo con senza tetto, sono persone che o dormono per strada negli stati dove il clima lo permette, sono uno dei problemi più grandi della California, o magari in alcuni rifugi dove il clima invece è meno mite, come per esempio nello stato di New York, e a New York in particolare, chiunque ci sia stato ha visto questi homeless per strada. Sono sicuramente persone che hanno dei problemi di salute pregressi, così ci siamo abituati a chiamarli, e quindi se dovessero essere contagiati dal coronavirus sarebbero l'individuo, la categoria a rischio perfetta, e però sarebbero anche quelli che sicuramente non andrebbero a cercare un aiuto medico, quindi aumentando il contagio. Questo è un allarme, già degli homeless gli americani preferiscono non parlare perché è una delle tante grandi contraddizioni di quel grandissimo paese, e queste sacche di povertà e di disperazione. In più adesso sono veramente una bomba a orologeria dentro la bomba a orologeria. Giulia, dalla Gran Bretagna notizia in arrivo dal governo Johnson. Sì, qui c'è stato ieri il titolo più bello, forse mi sembra quello dell'Independent, perché sappiamo naturalmente che il Boris Johnson è un conservatore, era addirittura uscito dal precedente governo di Theresa May perché non la considerava abbastanza conservatrice, e quindi l'Independent titola: l'età dell'austerità è finita, adesso inizia l'era del populismo, perché è stata annunciata questa manovra totalmente in deficit, mai fatta una manovra così nel Regno Regno Unito da per ora 30 miliardi di sterline e probabilmente ne arriveranno anche altri, e quindi l'equivalente, se, anzi molto di più, perché poi 30 miliardi di sterline sono ancora di più in euro di quello che noi abbiamo stanziato per ora come emergenza. E l'ha annunciata il nuovo cancelliere dello scacchiere, che è su tutte le prime pagine dei giornali, e però siccome nel governo Johnson c'è un ministro, in particolare, per l'ironia della sorte, il ministro della salute, che è una donna, stamattina a Sky News gli hanno chiesto: scusi, ma non le sembra il caso di fare il test? E sentiamo cosa ha risposto, perché lui è serenissimo. L'audio? Regia? Have you had a coronavirus test yet? No. Why not? Because I haven't been in contact with anybody from Public Health England who provide the advice, have not required me to have one. 80% of people who carry Giulia, traduzione, per me è una lezione di giornalismo, nel senso che questa giornalista di una televisione molto neutrale come Sky gli dice: ha fatto il tampone? No. E perché? Perché non mi è stato consigliato così dagli esperti. No, ma mi scusi, insiste lei, sicuramente lei sappiamo che le persone possono essere positive al virus ma asintomatiche, possono non avere, insomma, lei sicuramente è stato in contatto con qualcuno, perché semplicemente non lo fa? E lui le risponde: con tutto il rispetto, non me lo faccio dire da lei. E subito dopo a un'altra giornalista, questa sì, un'esperta di scienza, lei dice: mi ha detto che con tutto il rispetto, lei ha detto con tutto il rispetto, che francamente è pari a zero, glielo richiederei di nuovo. Senza, un bel momento. In effetti, insomma, siamo tutti spiazzati a tutti i livelli, in tutte le categorie, però sicuramente da un ministro che chiede poi, che prospetta questa manovra in debito, che quindi peserà sulle generazioni future del Regno Unito, come quella nostra peserà sulle future generazioni nostre, insomma, qualche precauzione in più si potrebbe prendere. Senti Giulia, non abbiamo tanto tempo, pochi secondi, però vedo che dalla Francia mi segnali che Boiron fa una cosa Il colosso dell'omeopatia, sì, tra l'altro sicuramente un'azienda molto seria, molto conosciuta anche in Italia, forse non è più l'epoca dell'omeopatia, sarà che nello scorso anno è stato deciso di non rimborsare più in Francia i medicinali omeopatici, però ha licenziato un quarto della sua forza lavoro. Hai capito. Grazie Giulia, ti ritroviamo domani. Grazie Giulia Crivelli, è tutto per la puntata di oggi. Peter Bescapè in regia, Jacopo De Franchi in redazione, Danilo Di Trani in assistenza. Ciao da Alessio Maurizi, l'augurio di una buona giornata.